Bielorussia stanno accadendo cose veramente molto gravi e preoccupanti, come anche l'introduzione proprio qualche settimana fa, il 20 febbraio, di una legge speciale proposta al Parlamento personalmente dal dittatore Lukashenko e approvata in un giorno, legge che prevede la pena di morte per i disertori. E in Bielorussia per disertori si intendono ovviamente anche gli obiettori di coscienza, i renitenti alla leva e così via. Quindi siamo in questo contesto. In questo contesto esce appunto questo dossier assolutamente preciso e dettagliato, basato solo su fonti pubbliche ufficiali, quindi tutto documentabile e provato, di questo fatto che nel 2022 sono stati realizzati 480 campi militari per minori, campi militari rivolti appunto a bambini dai 6 anni in su, campi organizzati dal Ministero della Difesa, fonte ufficiale, diciamo, rivolti soprattutto a bambini disagiati, a orfani o figli di famiglie in difficoltà, campi che durano 9 giorni, durante i quali si fa un vero e proprio addestramento di base militare, orientamento sul terreno, lotta e uso di armi per sparare e disciplina militare, in sostanza lavaggio del cervello, tutto rivolto al mondo russo, all'odio verso l'Europa, che loro chiamano Gay Europa, e questo fatto ha coinvolto nel 2022 oltre 18.000 minori, che significa il 2% circa dei bambini, dei preadolescenti della Bielorussia. È un fenomeno molto preoccupante. Nel dossier che abbiamo pubblicato anche in italiano, che è leggibile e scaricabile dal nostro sito azionenonviolenta.it, è documentato anche che i principali addestratori in questi campi di addestramento militare sono addestratori ceceni, quindi specializzati in questo tipo di attività, e questo fatto appunto dimostra, secondo Our House, l'associazione pacifista non violenta Bielorussia, che è la nostra partner, diciamo, molti di loro naturalmente sono costretti a operare dall'estero, sono espatriati. La leader Olga Karac, che è stata con noi la settimana scorsa, abbiamo fatto un tour in Italia nell'ambito della campagna di obiezione alla guerra. Su di lei, per esempio, è stata emessa una condanna a morte perché è considerata terrorista, è esule, non può rientrare nel suo paese, ma opera dall'estero, dalla Lituania. Secondo loro, appunto, tutto questo processo prepara, diciamo, la possibilità di un secondo fronte militare dalla Bielorussia verso l'Ucraina. E Lukashenko, come è noto, agisce su pressione forte di Putin e questo processo di militarizzazione in atto della Bielorussia è un fenomeno di cui l'Europa dovrebbe occuparsi seriamente. Nel mondo siamo abituati purtroppo a vedere bambini soldato, ma mai in Europa, e questa cosa qua è molto, molto preoccupante. Come si può reagire? Come dovrebbe reagire l'Europa? Beh, intanto con l'informazione, ecco, queste sono notizie che non sono ancora arrivate alla grande opinione pubblica, quindi avere una grande attenzione verso questo tipo di fenomeno. E l'altra opzione, l'altra proposta che noi facciamo è che con la nostra campagna di obiezione alla guerra, promossa e sostenuta dal Movimento Non Violento e da altre organizzazioni internazionali, proponiamo all'Europa, è quello di creare dei corridoi umanitari per obiettori di coscienza, disertori, renitenti alla leva e giovani bielorussi, russi e ucraini che comunque vogliono sottrarsi al processo di militarizzazione, comunque vogliono uscire, sganciarsi dalla macchina militare. Ecco, l'Europa dovrebbe aprire questi corridoi umanitari, concedere asilo e protezione agli obiettori di coscienza e riconoscere loro lo status di rifugiati politici. Penso che se l'Europa aprisse queste porte, in particolare appunto agli obiettori russi e bielorussi, sarebbe una mossa utile e molto concreta ed efficace per togliere consenso e togliere forza a Putin, a Lukashenko, e quindi aiutare in questo senso l'opposizione presente in quei paesi, in particolare l'opposizione di tipo pacifista, non violento, antimilitarista, e questo sarebbe un contributo forte e importante che l'Europa potrebbe dare a uno sviluppo più civile, più democratico di quei due regimi.